Le Scalpitanti, Meccana, numero 14 di 11 versetti. Il nome della sura deriva dal versetto 1. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Per le scalpitanti ansimanti. Che fan sprizzare scintille. Che caricano al mattino. Che fanno volare la polvere. Che irrompono in mezzo al nemico. In vero l'uomo è ingrato verso il suo Signore. In vero è ben conscio di ciò. In vero è avido per amore delle ricchezze. Non sa che quando sarà messo sotto sopra quello che è nelle tombe. E reso noto quello che è nei petti. Il loro Signore in quel giorno sarà ben informato su di loro?